conseguente io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi il giorno seguente io non mi sento di andare a lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io c'ho della zucca, non voglio lavorare. Il mercoledì poi il giorno di baruffa, io c'ho della zucca, non voglio lavorare. Il giovedì poi la festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Il giovedì poi la festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare. Leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovare. Il venerdì poi è un giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione, io che son cattolica non voglio lavorare. E sabato poi è l'ultimo giorno, oh che bel giorno, non voglio lavorare. E sabato poi è l'ultimo giorno, oh che bel giorno, non voglio lavorare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrullella che arriva, è tutto arrabbiato, brutto scellerato, dai levati di qua. Padrullella che arriva, è tutto arrabbiato, brutto scellerato, dai levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vada sull'ostia, alla fabbrica il padron. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa.